È una parabola famosa questa, la parabola degli invitati a nozze che si scusano di non andare. Ognuno porta la sua motivazione e sono motivazioni abbastanza pesanti, abbastanza forti, e tuttavia rifiutano. Rifiutano l'invito al pranzo delle nozze. Voi sapete che è immediata la trasposizione nel senso spirituale. Le nozze sono l'incontro con Gesù, non è solo la messa, ben di più. Infatti in genere io non chiedo alla gente se vanno a messa. Chiedo alla gente che tipo di rapporto hanno con Gesù. C'era una donna che mi dice: «Donna, mio marito non si confessa, glielo dica lei». E ho detto: «Donna, ma tuo marito non si confesserà, e secondo me fa bene, perché lui non ha incontrato Gesù. Va a confessarsi perché gliel'hai detto te. Che confessione è?» Noi non dobbiamo andare in chiesa, noi dobbiamo avere un rapporto con Gesù. E poi dopo c'è anche l'andare in chiesa, c'è anche il pregare a casa nostra, c'è anche osservare i 10 comandamenti, c'è avere un rapporto d'amore con Gesù. E noi vediamo che non solo al tempo di Gesù, ma anche al tempo nostro, c'è tantissima gente. In casa nostra, o magari anche dentro noi stessi, che trova le scusanti per non seguire Gesù. E che cosa ci dice questo Vangelo? E ci dice che Gesù non insiste, ti lascia andare. Siccome il comando di Gesù dice ama Dio con tutto il tuo cuore, ama il prossimo come te stesso, io accosto anche quando si chiede aiuto ai fratelli. Credo avete provato anche voi tante volte a degli amici che vi hanno detto: «Ehi, se hai bisogno, domanda, chiedimi, eh». Beh, io personalmente, se volete un consiglio, vi suggerisco di non chiedere mai un piacere a questi, perché quando glielo chiedi non hanno tempo, o magari ti rispondono: «E vedo se non ho impegni, vedo se sono libero». Non è questa l'amicizia. L'amicizia è quello che ti telefona e ti dice: «È un po' che non ti vedo, stai bene?». Ah, beh, allora sono tranquillo. Se ti serve qualcosa, non aver paura, sono qui. O addirittura va a trovare. Cioè, dobbiamo noi sbilanciarci per primi. Altrimenti, se uno trova una scusa, il mio suggerimento è non chiederglielo la seconda volta, perché avrà un'altra motivazione. Guardate che la stessa cosa capita con Gesù e uno dice: «E beh, pazienza, le nostre chiese continuano a svuotarsi e gli altri hanno le loro motivazioni. Per me è stucchevole sentire un sacco di gente, ma non vengo perché ho paura del Covid». Dico: «Ma come? Ma non ci sono luoghi così sanificati, così di cubatura ampia come le chiese, così distanziati come le chiese, vorrei che i mezzi pubblici di trasporto fossero sanificati come noi sanifichiamo dopo ogni Santa Messa. Vorrei che in tutti i ristoranti dove a mezzogiorno la gente si stringe lì a mangiare per 10 euro un piatto ci siano le cubature che abbiamo noi in chiesa. No, ma vorrei che al supermercato non ci fosse tutti che toccano tutto, e noi qui ci non mettiamo neanche l'acqua santa, non mettiamo più neanche i libretti dei canti, mettiamo giù i foglietti della messa e ti diciamo portali a casa, perché tanto noi, dopo che li hai toccati tu, noi non li ricicliamo più. Quante scusanti, amici, ma da parte di gente che è andata a messa tutta la vita e diventa anziana, e beh, tanto l'ascolto alla televisione, senza poter fare la comunione, senza poterti confessare. Ah, ma perché voi preti confessate ugualmente, tutti i sabati pomeriggio, con la distanza giusta, con le mascherine, confessiamo tranquillamente. Ora, può sembrare che anche se uno non va a messa, anche se uno, e ce n'è, non battezzano i bambini che nascono al giorno d'oggi, anche se uno si stacca da Dio, beh, cosa c'è di male? Tanto si vive ugualmente. Non lo so. Si vive ugualmente se un tuo amico non ti fa un piacere, in qualche modo tu rimedi. Ma se tu perdi Dio, io non te lo auguro. Perché io come esorcista ricevo decine e decine di telefonate, e anche oggi ormai vedo persone in presenza, di persone che, avendo perso Dio, non sanno a chi rivolgersi. Per il figlio che fa tribolare, per il marito che tradisce, per la donna che se ne va di casa con un'altra donna, per... a chi ti rivolgi? E lascio stare la malattia, e lascio stare la morte. Parlo semplicemente della vita di tutti i giorni. Ma ti rendi conto, fratello, che se tu perdi Dio, non hai più nessuno a cui aggrapparti? A che cosa ti attacchi se non hai più Dio? Già nella vita d'oggi, quanto più quando sarai solo, solo, solo, solo. Io l'ho già detta questa esperienza, ma la ripeto ancora, perché anche gli insegnanti a scuola ripetono le tabelline più volte per insegnarle. Anni fa ricevetti una lettera da una mia parrocchiana, io poi questa lettera la condivisi col cappellano dell'ospedale e col general manager, che diceva siano benedetti coloro che nelle camere d'ospedale hanno messo i crocifissi di fronte ai letti degli ammalati, perché finché c'ho qui gente a trovarmi il tempo passa, ma quando tutti vanno a casa, vien giù la sera, io sono qui da sola, quanti colloqui ho fatto con quel crocifisso là. Se tu non hai niente, ti tocca dialogare con la televisione che è accesa quasi giorno e notte anche nelle camere d'ospedale, e poi quando la spegni sei più solo di prima. Amici, non portiamo scuse. Se il Signore ci chiama, se il Signore può essere con questa predica, può essere con altre prediche, può essere con una ispirazione, se il Signore ti chiama, non accampare scusanti. Rispondi, eccomi.